Esercizio 4. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 3. Un bruto è una persona violenta. Sta passando un brutto momento. Metto la tuta e vado in palestra. Ho una gran sete. È una bella notte stellata. Siamo venuti qui in moto. Ognuno ha il suo fato, cioè il suo destino. Devi dire tutta la verità. Ho sudato le proverbiali 7 camicie. Le note musicali sono 7. Il motto è un modo di dire, arguto e spiritoso. Questo è un fatto noto a tutti.